Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, come già anticipato anche ieri sera dai nostri GR, poi questa mattina sembra addirittura d'arrivo l'accordo per l'Italia, visto che la CGIL ha aderito, ha firmato, si è incontrata. C'è stata una conferenza stampa del commissario straordinario Fantozzi che ha detto che entro il 15 ottobre nascerà la nuova compagnia di bandiera e quindi si è impegnato a mantenere l'operatività, a parlare subito con l'ENAC. Tra l'altro l'ENAC sta tenendo una conferenza stampa, è l'ente nazionale che verifica, che dà l'autorizzazione a volare sul territorio, ma Fantozzi ha detto che parlerà più presto e garantirà più presto l'operatività della compagnia entro il 15 nascerà la nuova compagnia. Poi un insieme di dichiarazioni del ministro Scajola, di quello e del ministro al welfare Sacconi. I sindacati, cioè non si capisce ancora molto bene quanto sia cambiato questo contratto. Secondo Miss Sacconi, in realtà l'accordo è lo stesso, non è modificato l'accordo, i documenti sono quelli firmati a metà mese. Dichiarazione del segretario CGIL Epifani, tra l'altro la CAI ha dato la propria disponibilità ad inserire 1000 precari nei prossimi 3 anni. Manca ancora la firma dei piloti e non è un dettaglio, però va detto che poco fa, circa mezz'ora fa per la precisione, le due sigle che rappresentano il 90% dei piloti di Alitalia, ANPAC e Unione Piloti, sono stati convocati, sono arrivati a Palazzo Chigi e vedremo se arriveranno aggiornamenti su questo. Quindi Alitalia in apertura, ma parleremo anche di telefonia in apertura. Oggi c'è il CDA di Telecom Italia, numerosi ascoltatori ci hanno detto parlate anche di altri settori, facciamo il possibile, e parleremo di telecomunicazioni con il numero uno di Vodafone Italia, strategie, un settore che alcuni giudicano maturo, con poche prospettive di crescita, altri invece vedono nelle nuove tecnologie e nelle nuove offerte possibilità di aumento dei margini, ma soprattutto sullo sfondo il tema resta, come nel settore dell'energia e del gas, resta la separazione tra la rete che trasporta le informazioni e quindi nel caso delle telecomunicazioni i cavetti, chiamateli come volete, e nel futuro la fibra, e chi su questa rete fa viaggiare le informazioni, quindi le varie società di telecomunicazioni. Su questo c'è anche una dialettica in corso tra Telecom Italia in quanto ex monopolista e l'autority sulle comunicazioni, ne parleremo tra un attimo. Poi la borse tutte bene impostate oggi. Parigi guadagna più del 2%, il 2,3%, Londra l'1,5%, Francoforte il 2%, Milano in linea più 1,90% sull'S&P MIB, più 1,5% sul MIBTEL. È di nuovo, nonostante la buona giornata, pesante l'Espresso, meno 2%, Tenaris meno 1,90%, Monte dei Paschi meno 1,6%, Impregilo meno 1,3%. Sul fronte opposto invece Prismian guadagna il 7,4%, Luxottica il 4,2% come Intesa, UbiBank guadagna il 3%, Finmeccanica il 2,80%, il Banco Popolare il 2,7%, Mondadori e Generali, ma anche Atlantia e ST Microelectronics guadagnano 2,5 punti, così come Geox e Fiat, Autogrill più 2,2%, Eni più 2%, ancora Enel più 1,90%, Unicredit più 1,80%, Unipol più 1,6% come Saipem, Fondiaria, e infine Terna più 1,3% come Mediaset e Fastweb, ma anche Snam, Rete Gas. Euro a quota 1,46,48. E allora rapidamente in breve le altre notizie. Petrolio in calo a New York in concomitanza, come spesso avviene, con un euro che è sceso sotto quota 1,47. Petrolio è a 104,5 dollari al barile. Il prezzo, però, dice il presidente dell'OPEC Shakib Khalil, potrà crescere se il dollaro continuerà a calare. Però una cosa oggettivamente inspiegabile: è scattata un'ondata di rincari per i carburanti. Seppur con aggiustamenti contenuti, la verde è tornata a 1,43 al litro e il diesel a 1,38 e 1,39. Non mi chiedete perché su questa cosa mi sto arrendendo, nel senso che il petrolio comunque viaggia a 104 dollari, viaggiava a luglio a 147, sono 40 dollari di differenza, eppure i prezzi restano a 1,43. A questo punto intervenisse il governo per capire che cosa succede nel rapporto distribuzione di diesel e carburante, perché noi come andamento del mercato non riusciamo a capirlo, ma sarà sicuramente colpa nostra. Aumenta un mese al record, aumenta l'Euribor un mese al record a 8 anni, al 4,98% il tasso interbancario Euribor per quello che riguarda la scadenza a un mese. Anche l'Euribor a tre mesi ha segnato un rialzo di 7 punti al 5,12%, siamo al massimo dal novembre del 2000, e l'Euribor è importante perché viene utilizzato come tasso di riferimento in molti prestiti, mutui, ma non solo. E alle 18 ore italiane è atteso l'intervento del presidente della Federal Reserve Bank Bernanke di fronte alla Commissione Servizi Finanziari della Camera sul crollo, sul crack dei colossi americani dei mutui Fannie Mae e Freddie Mac, che sono stati di fatto nazionalizzati. Dovrà spiegare Bernanke perché questi due colossi avessero una fragilità quanto a disponibilità finanziaria così forte che poi di fatto li ha portati a essere completamente nazionalizzati. E ieri sera, in serata, Bush ha difeso il suo piano, ha detto che punta a salvare l'intera economia, un piano da $1,000 miliardi, che avere creato questo deposito ha permesso di evitare al mercato di cadere nel panico, che ha permesso di evitare la recessione. E poi ha invitato, ma questo è più un dettaglio, McCain e Obama alla Casa Bianca per discutere però del piano salva finanza. Si incontreranno alle 22 ore italiana. Non è un mistero che il recupero nei sondaggi da parte di Obama, come raccontavano anche questa mattina i nostri GR, sia dovuto quindi venire meno dell'effetto Palin per quello che riguarda McCain, sia dovuto proprio alla crisi dei mutui finanziari, che per un insieme di motivi che abbiamo già analizzato avvantaggia di più il candidato, o sembrerebbe avvantaggiare di più il candidato democratico. Nel frattempo però le vendite di nuove case negli Stati Uniti sono crollate, meno 11,5%, così come i consumi di beni durevoli, quindi tutto ciò che non è un bene di consumo ma è un bene che dura nel tempo, sono calati ben più delle attese, meno 4,5%. E sono aumentate più delle attese anche le richieste di sussidi di disoccupazione, più 32.000 contro attese di un calo di 5.000 unità. E la General Electric, il colosso per capitalizzazione americano, ha tagliato le stime sugli utili del terzo trimestre e ha deciso di sospendere tutto il programma di riacquisto di azioni proprie per via di una debolezza e volatilità senza precedenti nel mercato dei servizi finanziari. Allora, la Spagna, alcuni di voi ricorderanno le dichiarazioni del presidente Zapatero a marzo, quando disse abbiamo superato l'Italia, gli rispose allora il presidente del Consiglio Prodi, no, non è vero. Da allora devo dire che la dichiarazione non portò molto bene a Zapatero, perché la crisi dei mutui spagnoli e la crisi immobiliare spagnola è la più grande dopo quella britannica in tutta Europa, e lì si teme che produrrà i danni maggiori. Qualche danno lo sta già creando, perché la crisi economica ha indotto il Comune di Madrid a congelare temporaneamente tutti gli investimenti in opere pubbliche in attesa di sapere quale sarà la sua effettiva dotazione finanziaria. Ma questo non ha evitato a Zapatero un nuovo attacco, questa volta a Berlusconi, sul presunto sorpasso della Spagna nei confronti dell'Italia. In un incontro a New York con diversi imprenditori e manager americani, il capo del governo di Madrid ha fra l'altro affermato che la Spagna ha il sistema finanziario più solido del mondo e che il collega italiano Silvio Berlusconi si deprime pensando che la Spagna ha superato l'Italia in termini di reddito pro capite. Staremo a vedere, la bolla immobiliare spagnola forse potrà frenare un'economia, io non è che glielo auguri, però insomma, un'economia che si basa molto sul mercato delle costruzioni, sui consumi interni, molto meno sulla capacità competitiva delle imprese spagnole quanto a quota di mercato, quanto a valore dell'export, insomma, quanto a manifattura. E poi parleremo anche del commercio con l'estero, perché a luglio ha toccato un record, più 2 miliardi il nostro commercio con l'estero, non quello spagnolo, 2 miliardi è il record dal 1991, il boom è verso l'Europa dell'Est ma anche verso l'Asia e l'India. E adesso la vicenda all'Italia, ne parleremo ampiamente più avanti, la fumata e bianche, svolta anche la CGL, ha firmato l'accordo con la CAI, l'Air France è pronta a entrare con una quota tra il 10 e il 20%, la CAI, secondo quanto dichiarato dal leader sindacale della UIL Angeletti, assumerà 12.500 dipendenti, mentre per altri 3.250 vi sarà la cassa integrazione, compagnia operativa a metà ottobre, ENAC pronta a ricevere il piano di emergenza per evitare la sospensione della licenza. C'è un'assemblea di dipendenti a Fiumicino in corso. Allora, in rapida sequenza sentiamo, poi ne parleremo ampiamente, cosa ha dichiarato il commissario straordinario Fantozzi in conferenza stampa dopo l'incontro, dopo insomma che è stata ufficializzata l'adesione della CGL. Ho ricevuto dall'ingegner Colaninno la lettera che revoca la revoca e quindi che rimette in pista l'offerta CAI, che chiede termine fino al 15 ottobre, alla luce degli indugi che ci sono stati fino ad oggi, quindi il 15 ottobre è il termine dell'offerta CAI. Di qui ad allora dovremo assicurare, uno, che si riesca a fare il closing e quindi si possa passare giuridicamente alla nuova compagnia la gestione all'Italia, due, che in questo periodo non si sospenda l'attività di volo. Per ragioni operative qualche volo si è dovuto ridurre e io vorrei tramite voi lanciare un messaggio: all'Italia vola, continua a volare, le riduzioni derivano da comprensibili incertezze, da comprensibili dubbi e anche da qualche speculazione evidentemente di coloro che su questo guadagnano. Aiutatemi, aiutateci a fare in modo che questo non avvenga. Nel mese di settembre noi abbiamo avuto una flessione di 100 milioni di biglietti, sono 100 milioni di meno in cassa. Se riprenderemo il flusso normale, questo aiuterà il commissario, aiuterà l'Italia, in definitiva aiuterà l'Italia a viaggiare. Così commissario Fantozzi. Allora sentiamo anche la voce, la dichiarazione di chi ha contribuito a questa svolta, ossia il leader della CGL Guglielmo Epifani, anche lui nella conferenza stampa a Palazzo Chigi compie un appello e lancia un appello soprattutto al fronte dei piloti. Io confido che anche grazie a queste interpretazioni e avanzamenti sia possibile da parte di coloro che fino a oggi non hanno voluto sottoscrivere nulla, mi riferisco alle associazioni degli assistenti di volo e alle associazioni dei piloti, in queste ore di poter riflettere per vedere come anch'essi contribuire a questo piano di rilancio e di risanamento dell'azienda. Io ho sempre creduto, anche prima, che insieme con la firma sull'accordo fosse importante il fatto che l'accordo consentisse il giorno dopo all'azienda di poter continuare a lavorare, a essere rilanciata. Io spero e confido che attraverso queste cose da domani ci sia la possibilità di riportare tra i lavoratori di Alitalia quel clima di serenità anche tra di loro, senza il quale una scommessa come questa diventa difficile da percorrere. Infine, penso che aver finalmente messo qualche parola di chiarezza sul partner internazionale della nuova cordata rappresenti un elemento di garanzia in più. In un mercato così difficile, avere un partner, sia pure da scegliere, ma comunque da considerarlo all'inizio della partenza della nuova società un punto di riferimento fondamentale, dia solidità al piano, gli dia credibilità e consenta di avere quella dimensione che il mercato globale oggi richiede. In sostanza, ha detto il leader della CGIL Epifani, è cambiata l'interpretazione di questo, dell'accordo, della proposta, anche perché il ministro Sacconi ha ribadito, no, la proposta è la stessa di 20 giorni fa, i documenti sono quelli firmati a metà mese. In realtà, da quello che abbiamo capito noi, ci sono un insieme di valutazioni sugli esuberi, sui 1000 precari da inserire nei prossimi 3 anni, sulla retribuzione. Ecco perché forse Epifani parla di interpretazione, non c'è stata una modifica vera e propria. E poi ha sottolineato il ruolo dell'offerta di Air France. Anche qui è innegabile che da quando Air France ha fatto capire ieri in serata attraverso il consulente Mengozzi di essere disposta a entrare fin da subito con una quota dal 10-20%, questo abbia sbloccato anche abbastanza rapidamente il muro contro muro. Allora, i piloti sono a Palazzo Chigi, ma noi siamo in grado di farvi sentire che cosa ha appena dichiarato Roberto Spinazzola, che è vicepresidente dell'Unione Piloti, non è dentro con i due presidenti, però sottolinea a quali condizioni anche i piloti potrebbero firmare entro oggi l'accordo. Vi dico a questo punto com'è la situazione. I comandanti Notaro e Berti sono in questo momento a colloquio con il sottosegretario Letta, ho parlato 2 minuti fa. Noi abbiamo presentato un documento integrativo. La nostra posizione in questo momento è quella di poter firmare l'accordo quadro solamente se viene accettato questo documento integrativo dell'accordo quadro, che non altera in sostanza l'accordo quadro, perché sarebbe assurdo pretenderlo dopo che hanno firmato CGIL, CISL, UIL e UGL, ma lo integra con delle cose importanti per noi e per la nostra categoria. Vedremo cosa ci sarà risposto, vedremo se ci sarà un minimo di attenzione. Ad oggi devo dire che tutte le aspettative che abbiamo avuto ogni volta che andavamo ai tavoli sono state vane. Purtroppo c'è sempre stato un muro contro. Allora, ne riparleremo di Alitalia, quindi adesso cerchiamo di far contenti quegli ascoltatori che dicono basta, non se ne può più di Alitalia, l'abbiamo spiegato, purtroppo, per fortuna non è un'azienda come altre. Ma cambiamo tema e occupiamoci di telecomunicazioni. Non solo perché oggi c'è stato il consiglio di amministrazione di Telecom, ne parleremo più avanti, ma perché il tema delle tariffe, dello scorporo della rete dai contenuti e anche il tema legato ad alcune multe, ad alcune incomprensioni, chiamiamole così, con l'antitrust e con le autorità di vigilanza in tema di SMS e quant'altro, sono temi abbastanza attuali. Vorrei capire però, alla luce di tutto questo, anche qual è lo scenario del settore delle telecomunicazioni, se è vero che i margini di guadagno degli utili si stanno riducendo per via di offerte sempre più da abbonamento, quindi con minor possibilità di guadagnare per singolo utente, e se invece vi siano altre strade da percorrere, altri settori profittevoli, come si chiamano in gergo nelle telecomunicazioni. Lo facciamo allora con l'amministratore delegato di Vodafone Italia, Paolo Bertoluzzo. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Partiamo dalla cronaca per poi arrivare agli scenari. Quest'estate, con uno sviluppo che poi ha avuto il suo apice a inizio settembre, sia l'antitrust che la GCOM, ossia l'autorità che vigila sul settore delle telecomunicazioni, hanno detto a voi come Vodafone e a TIM: attenzione, date un'informazione più chiara e trasparente sul mutamento dei piani tariffari, perché altrimenti l'informativa non risulta corretta. E poi permettete anche il passaggio della scheda residuo, ma questo è più marginale, da un operatore all'altro. La vostra risposta, anche perché, se ho ben capito, la nuova manovra, il nuovo piano tariffario di TIM è già scattato, il vostro dovrebbe partire il primo di ottobre. Le nostre modifiche avverranno a partire dall'inizio di ottobre. Abbiamo preso 31 piani tariffari che erano vecchi anche di 10 anni e li abbiamo ricondotti a 7 piani tariffari che di fatto mantengono inalterata la struttura scelta dal cliente inizialmente. E rispetto a questa struttura ci sono alcuni elementi che risultano meno cari, alcuni elementi che risultano più cari. Ad esempio, l'SMS scende per quasi tutti i piani a 10 centesimi. Le autorità ci hanno chiesto di apportare qualche modifica al tipo di comunicazione che avevamo fatto, cosa che abbiamo immediatamente accolto, e poche ore dopo che c'era stato richiesto era già stato fatto. Fermo restando che le due autorità che ho citato non sono intervenute sul piano tariffario in sé, ma sull'informazione, a giudizio della GCOM soprattutto carente nei confronti dei clienti. Le autorità non possono intervenire sul piano tariffario, c'è una concorrenza. Voi ritenete quindi di essere in qualche modo compliant con quelle che sono le richieste delle due autorità? Noi abbiamo assolutamente già dato seguito a quanto l'autorità ci aveva chiesto. È importante ricordare che noi abbiamo informato con largo anticipo, in realtà con quasi 2 mesi d'anticipo, i nostri clienti rispetto al mese richiesto dalle regole, proprio per consentire ai clienti di capire bene, informarsi, per scegliere la cosa più giusta per il singolo cliente, che aveva la possibilità di scegliere tra i 5 piani attualmente sottoscrivibili, piuttosto che scegliere, se comunque soddisfatto, di recedere o di passare ad altro operatore con la restituzione del credito, ovviamente in modalità gratuita. Dai piani tariffari alle multe dell'antitrust, 1.200.000 euro per 4 gestori, 315.000 euro a Telecom, 285.000 a voi di Vodafone, 265.000 per Wind, 185.000 per H3G e 155.000 per 09. La campagna 10 sms gratis, sostiene l'antitrust, che non fosse sufficientemente trasparente. Ma perché c'è tutta questa, diciamo, tensione sulla trasparenza e sull'informazione? Hanno paura che confondiate gli utenti? Ma guardi, qui tanto per cominciare è importante ricordare che non è una campagna né di Vodafone né degli altri operatori, ma una campagna fatta da quello che tecnicamente si chiama un provider, nel caso specifico 09, cioè fornisce dei servizi, dei contenuti. Che fornisce dei servizi e dei contenuti al cliente finale, che nel caso specifico evidentemente non ha comunicato secondo i canoni prescritti dalle regole e dalle autorità. Per inciso, poi passiamo ad altro, ma come mai, se era un altro soggetto, quindi 09, la multa l'avete presa voi, Telecom e H3G e Wind? Proprio mi sfugge il nesso, cioè l'informazione scorretta era di 09, se ho ben capito, che andava, mi passi il tema, a raccontare un'offerta in maniera non trasparente su 10 sms gratuiti. Si tratta di campagne di comunicazione pubblicitarie fatte nel caso specifico da 09, rispetto alle quali credo le autorità abbiano di fatto penalizzato anche gli operatori, in quanto presupponevano una verifica a monte da parte degli operatori stessi. Vivian Reding, che è commissario europeo delle telecomunicazioni, sempre in tema di costi, però su base europea, ha detto che proporrà un tetto tariffario agli sms in roaming. Detto così sembra un po' ostico, in sostanza quando si va all'estero e si riceve un sms, un mms, un altro servizio di data, di informazioni, in Europa vige la giungla, cioè si passa dai 6 centesimi dell'Estonia ai 60 centesimi del Belgio, con medie europee di 29 centesimi. Lei li ritiene troppo alti e chiederà che in tutta Europa vi sia un tetto, quindi massimo 11 centesimi. Anche in questo caso si tratta di un intervento abbastanza netto proprio sui prezzi da parte del commissario, che non so nemmeno se definire regolatore, perché non ha questa funzione. Vi sentite nell'occhio del ciclone anche a livello europeo, oppure la giungla in qualche modo sollecita e richiede un intervento di carattere complessivo e quadro? Ma io credo che il fatto che dall'Estonia al Portogallo ci possano essere dei prezzi diversi faccia parte delle dinamiche di mercati che sono anche molto diversi. Credo che la cosa importante sia assicurarsi che i clienti siano informati in modo corretto e trasparente dei prezzi che loro pagano e abbiano la possibilità di scegliere tra diversi operatori se questi prezzi non li aggradano. Nel caso specifico degli SMS è importante ricordare che almeno noi come Vodafone Italia siamo già al di sotto di queste medie europee, costiamo più o meno 20 centesimi più IVA e quindi siamo abbondantemente al di sotto. Credo che sia importante ricordare che un'operazione simile fu fatta più o meno un anno fa per quanto riguarda i prezzi dei minuti, quindi della voce, dove fu anche lì imposta una tariffa europea che si chiamava Eurotariff, si chiama Eurotariff, ma è importante anche ricordare che ci sono tariffe sul mercato che sono già molto più convenienti delle tariffe imposte. E allora veniamo al settore delle telecomunicazioni, perché è un settore oggettivamente, non lo vediamo dai dati Istat, in cui la concorrenza c'è, tra l'altro i prezzi nelle telecomunicazioni assieme ai prezzi di altri generi durevoli, penso all'elettronica da consumo, sono prezzi in costante calo anche a livello nominale. Poi è chiaro che noi usiamo le telecomunicazioni di più di qualche anno fa e quindi magari la spesa complessiva per noi è più alta, ma il prezzo, diciamo, unitario è in calo. La concorrenza ha fatto bene, gli operatori ci sono, le offerte ci sono per diversi tipi di cliente. C'è però chi sostiene che ormai il vostro sia un mercato saturo. Lo ha fatto questi microfoni poco più di un anno fa Francesco Caio, quando dimettendosi da Cable & Wireless disse: attenzione, il mondo delle telecomunicazioni in cui si guadagnava per consumo, sulla base del consumo, sta finendo, perché ormai le compagnie telefoniche offrono tariffe d'abbonamento, mi dai una certa cifra al mese o all'anno e io ti do centinaia di ore di conversazione, centinaia di sms, ore su internet. Cioè si va verso un mondo che ricorda un po' le utilities, non più il consumo, il guadagno sul consumo, e quindi si appiattisce il margine di utile per ogni singolo soggetto e nuovo cliente. La domanda è, intanto, se è d'accordo, ma in secondo luogo, nel caso fosse d'accordo, e allora gli utili e le crescite future da dove arriveranno? Allora, credo che sia importante guardarlo un pochettino più da vicino a questo mercato. Le telecomunicazioni sono un mercato speciale perché sono un mercato che vede un grandissimo sviluppo in termini di nuovi servizi, grandi innovazioni, nuove tecnologie, più minuti, più sms, più dati, ma contemporaneamente subiscono, proprio per effetto di quella competizione della quale parlavamo prima, un calo dei prezzi molto forte. Non ci dimentichiamo che negli ultimi anni, anche in questi ultimi mesi nei quali l'inflazione corre, le telecomunicazioni, in particolar modo quelle mobili, sono l'unico elemento deflattivo del nostro paniere sul quale si calcola l'inflazione. Noi crediamo che ci siano due aree di sviluppo importanti nel nostro settore, in particolar modo per un'azienda come la nostra, che possono continuare a portare crescita anche in un mercato che risente di queste dinamiche della competizione. Da un lato vediamo un'opportunità nello sviluppo dei servizi dati mobilità. Noi amiamo chiamarla larga banda mobile e crediamo che questa sia una vera area di crescita per potenzialmente tutto quanto il settore, particolarmente importante in Italia. E che servizi viaggerebbero, viaggeranno o viaggiano già su questa, quando lei parla di servizi integrati di questo genere? Ma allora, esistono sostanzialmente due tipi di servizi. Il primo è quello che consente ai clienti di collegarsi con un loro computer portatile quando sono in mobilità attraverso le reti wireless. E questa è un'area sulla quale come Italia siamo avanti rispetto a qualunque altro paese al mondo, essendo dotati di tre infrastrutture in competizione tra di loro, tre reti in competizione tra di loro che coprono il 70-80% della popolazione. La seconda applicazione è quella della famosa internet su cellulare, cosa che sta diventando sempre più concreta ad esempio attraverso il lancio dell'iPhone, che sicuramente fa percepire in modo ormai definitivo anche al mercato più ampio, quello del mercato, il famoso mercato di massa, quali sono le vere potenzialità di questi strumenti in mobilità. Perché è così importante nella telefonia fissa la separazione tra rete, tra chi gestisce la rete e chi su questa rete fa viaggiare i contenuti, e se voi avete avuto qualche penalizzazione dal fatto che Telecom Italia ancora non abbia portato a termine e completato lo scorporo vero e proprio tra la società che gestisce la rete e quella che invece su questa rete fa viaggiare contenuti, servizi e quant'altro. Ma allora, nel mondo della rete fissa la situazione è ancora molto diversa, perché esiste un operatore con una quota di mercato ancora fortemente prevalente, che va dall'85% al 60% a seconda di come la vogliamo calcolare, che di fatto ha ancora un predominio molto forte sul mercato e che possiede l'unica vera infrastruttura di accesso, che è la famosa rete in rame, il famoso doppino che arriva nelle case di tutti quanti gli italiani. Ecco, noi crediamo che questo sia di per sé una rete non duplicabile da parte degli altri operatori, e che cioè, in quanto potete tale costruire un'altra è avere due doppini che entrano nelle case degli italiani. Costruire un'altra sarebbe assolutamente antieconomico per chiunque, tant'è vero che in giro per il mondo non ci sono operatori che costruiscono un'altra rete in rame, ed è importantissimo che questa rete sia accessibile alle stesse condizioni anche agli altri operatori come Vodafone, ma come tutti gli altri operatori che operano già da tempo nella rete fissa, per fare in modo di poter offrire in vera concorrenza a Telecom Italia dei servizi per lo sviluppo del mercato e per il beneficio del mercato. Questo tema diventa ancora di maggiore attualità adesso che si inizia a parlare di reti di nuova generazione, in particolar modo di reti in fibra, perché è evidente che chi è dotato oggi di un'infrastruttura, unica infrastruttura presente, che raggiunge le case degli italiani in doppino, per definizione ha la possibilità di costruire su questa infrastruttura anche quella in fibra. E quindi è importantissimo in questa fase di evoluzione del mercato creare una vera competizione sulle infrastrutture di oggi per evitare che questa dominanza dell'operatore ex monopolista si trasferisca dalle reti di vecchia generazione anche alle reti di nuova generazione, quindi sul futuro. Quindi, per concludere, se ho ben capito, voi dite, siccome Telecom ancora gestisce come società interna la rete di rame ed ha una condizione ancora di semimonopolio, comunque di posizione forte, dominante, su questo devo dire siete in linea con quanto ritiene anche l'Authority, che chiede a Telecom di operare al più presto uno scorporo anche societario della rete. E siccome c'è il rischio che lungo le stesse canalette dove passano i fili di rame, più avanti tu porterai anche la fibra ottica, ci deve essere che cosa? Una società terza, perché è difficile anche chiedere a Telecom di completamente liberarsi, deve venderla, deve essere rilevata dall'autorità, deve diventare, non so, una società partecipata da tutti gli operatori. Che cosa avete in mente? È evidente che un'eventuale separazione della rete, sottoposta comunque a una serie di regole molto chiare definite dal regolatore, consentirebbe di superare il problema nel quale siamo adesso e per giunta consentirebbe di distinguere in modo netto tra due temi che invece su questa discussione vengono spesso confusi. Da un lato la necessità di consentire lo sviluppo delle infrastrutture per il futuro delle telecomunicazioni nel nostro paese e dall'altro quello della risoluzione dei temi specifici di Telecom Italia, che come ogni azienda di telecomunicazioni sta vivendo le sue vicissitudini in funzione della sua storia e del contesto di mercato. Per cui le dice, vediamo di capire anche cosa deciderà l'azienda. Io aggiungo però, per dovere di informazione, che di questa cosa non è che ne decidiate né voi né Telecom, c'è anche un'autorità, per fortuna dal punto di vista mio, che chiede, così come lo chiede nel mondo dell'energia, anche nel mondo delle telecomunicazioni, una chiarezza tra chi gestisce i binari, per usare il solito esempio, e chi ci fa correre sopra i vagoni. Comunque, grazie all'amministratore delegato di Vodafone Italia, Paolo Bertoluzzo. Grazie a voi. E noi restiamo in tema di telecomunicazioni, non questa volta su Vodafone e sugli scenari del settore telecomunicazioni in Italia, ma sul gruppo Telecom, su cose anche molto più concrete, forse di carattere più finanziario. Questa mattina c'è stato il consiglio di amministrazione del gruppo Telecom, era molto attesa la comunicazione sull'eventuale offerta libica. C'è infatti da giorni la voce di un interessamento della Libyan Investment Authority, di altri investitori istituzionali, magari dello stesso Golfo Persico, che potrebbero entrare con una quota tra il 5 e il 10% nel capitale di Telecom. Il CDA, dal CDA è arrivata solo la notizia che sono effettivamente arrivate delle manifestazioni di interesse, ma nessuna è stata sollecitata dalla società né alcuna si è concretizzata in una proposta. E poi Bernabé ha rinviato tutto al prossimo consiglio di amministrazione del 2 dicembre per il piano industriale. Paolo Madron, firma del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, tu hai scritto proprio in questi giorni alcuni articoli su questa offerta libica. Per fare capire a tutti, in realtà Telecom ha appena conosciuto un riassetto con l'ingresso importante degli spagnoli, l'azionista principale è la Telco, che ha il 24,5% del capitale di Telecom. Di questa Telco gli azionisti sono gli spagnoli di Telefonica con il 42%, poi le Generali con il 28%, Intesa San Paolo con il 10%, Mediobanca con il 10% e i Benetton, che sono rimasti della gestione Tronchetti Provera, con l'8%. Come mai si parla in maniera così insistente dell'offerta libica e quali sono i problemi, diciamo, italo-spagnoli? Insomma, c'è bisogno di risorse perché gli azionisti di Telco, tra l'altro, hanno una minusvalenza sulla loro partecipazione, molto molto rilevante, credo che complessivamente siamo intorno ai 5 miliardi di euro. E la società poi soffre di un deprezzamento del titolo in borsa che è ai minimi degli ultimi 10 anni, viaggia attorno a 1 euro. E quindi l'ingresso di un nuovo socio, oltre che benvenuto per portare nel capitale, servirebbe anche a dare un po' di propellente al titolo e con questo in qualche modo attenuare possibilmente la minusvalenza che gli azionisti di cui tu facevi riferimento prima di Telco hanno in carico. Sull'ipotesi libica però si sono levati gli scudi anche della politica. Ieri il ministro Scajola ha detto: riteniamo che Telecom debba restare in mani italiane, e quindi il riferimento era ai libici ma forse anche agli spagnoli. La Lega non ha fatto mistero di non vedere con favore l'ingresso dei libici. Dopo le informazioni perché in viaggio, vorrei capire come questa partita libica, Paolo, entri nella partita più complessa e articolata tra i due azionisti, cioè il gruppo italiano e il gruppo spagnolo. Di nuovo in diretta, allora Paolo Madron, come la partita libica va a intersecarsi e infilarsi nella partita più complessa tra controllanti spagnoli e controllanti italiani in Telecom Italia? Beh, i libici per tradizione sono un socio fantastico, nel senso che sono uno sleeping partner perfetto, ci mettono i soldi. Riferisci alla FICO della Fiat, forse? No, alla FICO, ma anche più di recente alla Juventus, per esempio. Diceva l'amministratore delegato che non si ricordano nemmeno di averli, però i soldi ce li hanno messi, quelli ci sono. Quindi non credo che gli spagnoli possano temere dall'ingresso dei libici. Il problema degli spagnoli è un altro, è che erano arrivati con delle ambizioni, erano convinti che la strada fosse in discesa e che nel giro di poco tempo la società sarebbe stata loro, e invece dopo un'illusione iniziale, e l'ultimo viaggio del loro presidente di Aglierta in Italia ha fatto capire chiaramente che non ce n'è. E quindi il problema per loro è quello di come adesso giustificare un investimento costoso, 2 miliardi e 5, e una minusvalenza altrettanto imponente, e quindi cercheranno in qualche modo di uscire limitando i danni dalla partita, perché credo non sia possibile una forzatura della situazione da parte loro. Per cui tu dici è più probabile che a un certo momento escano? E che non restino dentro tentando magari di aumentare la quota? Ma io credo di sì, nel senso che aumentare la quota non vedo francamente come, non ci sono le condizioni perché questo possa avvenire. Io credo che loro avrebbero gradito una sorta di uscita, di way out, scambiando la loro quota con la Team Brasil, che a loro interessava molto. All'inizio sembrava che la cosa, lo scambio si potesse fare, poi invece anche lì ci sono delle resistenze, per cui insomma adesso sono in una fase interlocutoria, credo che però insomma non siano assolutamente contenti di come stanno andando le cose. Grazie Paolo Madron, editorialista del Sole 24 Ore. Adesso passiamo alla borsa, intanto da Telecom Italia, più 1,1%, anche oggi il titolo sotto i riflettori a 1,09 euro, buona la chiusura, più che buona la chiusura nel finale, soprattutto più 2,4% l'S&P MIB, più 2% il MIBTEL, Parigi più 2,7%, Francoforte più 2%, Londra più 2%, l'America sta aumentando il rialzo, più 2%, rivede gli 11.000 punti il Dow Jones. Livia Zancanera, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Intanto come mai di questo strappo soprattutto nel finale? Allora, le borse europee a metà pomeriggio hanno iniziato ad allargare i guadagni e sono state spinte dal buon andamento di Wall Street, in quanto sembra avvicinarsi l'accordo sul piano di salvataggio del sistema finanziario americano promosso dal governo. E i listini invece non hanno particolarmente risentito del profit warning lanciato da General Electric, che per un momento aveva invece frenato la corsa delle borse europee. Questo è lo scenario generale, veniamo ai singoli titoli, partendo oggi chiaramente da chi più guadagna. Mi riferisco a Prysmian, più 7,8%, devo dire molto bene anche alcuni titoli legati all'euro-dollaro, Luxottica più 4,26%, Molto bene anche i bancari, perché Intesa guadagna il 3,3, Unicredit il 3,2, UbiBanca il 3,2, Generali il 2,7%, il Banco Popolare più 2,5% e ancora Unipol più 1,7%. Prismian. Sì, allora Prismian bisogna dire che il titolo nelle ultime settimane è stato molto penalizzato, infatti ha perso oltre il 23% dal 2 settembre. Stamattina quindi, dopo che Citigroup ha confermato giudizio comprare sul titolo a un prezzo a 19,8 euro, mentre il titolo tratta ora a fine seduta a 14,43, sono scattati gli acquisti sulle azioni, che infatti poi hanno chiuso a più 7,84% dopo una sospensione per eccesso di rialzo quando il titolo guadagnava l'8,66%. Ancora sui titoli, visto che parliamo dell'Italia, ne riparleremo, i titoli legati alla cordata, se così si può dire, come sono andati? Sì, allora, sono praticamente volati tutte le società che fanno capo agli imprenditori coinvolti nella vicenda all'Italia. Infatti il mercato scommette sul fatto che se l'accordo sulla compagnia aerea dovesse andare a buon fine potrebbe rafforzare la galassia degli imprenditori coinvolti nel salvataggio della compagnia. Quindi IMSI e Piaggio di Roberto Colaninno hanno chiuso bene o male a più 8,86 IMSI e più 6,97 Piaggio. La Prema Fin di Salvatore Ligresti ha chiuso con un rialzo del 9,5% circa. L'unico che invece ha girato in territorio negativo è stata Gemina, che è la proprietaria degli aeroporti di Roma, che dopo una seduta in grande spolvero ha invece terminato in territorio negativo. Eh sì, è girato proprio nella parte finale. Ancora Finmeccanica molto bene, più 3%. Sì, Finmeccanica ha beneficiato dell'incremento di raccomandazione da parte di Société Générale. La banca d'affari ha infatti alzato la raccomandazione sul titolo dal precedente mantenere a comprare e il target da 17 a 18 euro. Bisogna anche dire che Finmeccanica ieri è stata una delle poche azioni che ha terminato la seduta invariata, nonostante i cali, in quanto il presidente Guarguaglini ha sottolineato in un'intervista al Sole 24 Ore che il fallimento di Lehman non avrà impatto sull'aumento di capitale varato da Finmeccanica. Allora, ancora qualche titolo dopo il nostro GR, ancora un po' di pazienza per Livia Zancaner, adesso il GR, poi chiudiamo con gli editoriali, oggi di nuovo fortemente penalizzati, in recupero invece gli energetici, poi parleremo dell'export italiano. Di nuovo in una bella giornata, lo dico per chi si fosse appena messo in collegamento, di borsa con rialzi in Europa tutti superiori al 2%, il 2,4% per quello che riguarda Milano. Dicevo di nuovo però oggi, nonostante la bella giornata per quasi tutti i titoli, sotto pressione i titoli editoriali, meno 1,5% gruppo L'Espresso, tra i peggiori anche il Sole 24 Ore, meno 4,7%. Sì, allora il gruppo L'Espresso, nonostante il buon andamento del settore media a livello europeo che ha guadagnato oltre l'1%, continua a pagare i tagli di giudizio sul titolo arrivati nei giorni scorsi da parte di Deutsche Bank e Citigroup. Entrambe le banche d'affari infatti avevano ritoccato al ribasso la raccomandazione, portandola da mantenere a vendere, abbassando anche il prezzo obiettivo. Ieri inoltre a penalizzare il comparto più in generale però la società tedesca ProSiebenSat aveva rivisto al ribasso le previsioni sui risultati 2008. E quindi da lì la penalizzazione del settore. Tra gli altri titoli oggi in evidenza, oltre a quelli che ricordavamo con il caso soprattutto di Prismian, miglior titolo dell'S&P e MIB, ma anche bene altri titoli Fiat. Su Fiat il recupero è stato confermato anche nel finale, mi sembra di vedere, perché il titolo poi ha guadagnato il 2,4%. Sì, il titolo ha guadagnato il 2,4% dopo la perdita del 4,4% segnata ieri. Il settore auto oggi ha guadagnato oltre l'1% e il titolo ha ripreso fiato oggi dopo che ieri i vertici della casa automobilistica a mercati chiusi hanno smentito le voci su un profit warning imminente da parte della società, confermando invece gli obiettivi economici per il 2008. E allora bene anche altri titoli fuori dal comparti che abbiamo commentato, mi riferisco per esempio a Geox più 2,3%, Buzzi Unicem più 1,7%, bene anche Autogrill più 2,3%, A2A più 1,71%, Eni più 1,5% come Saipem e Snam Rete Gas, ancora Mediaset più 1,3% come Fastweb, Bulgari più 1,1% come Alleanza. assicurazioni. Di negativo, oltre al settore editoriale, Tenaris meno 1,7%, Impregilo meno 0,90%, Mediobanca meno 0,80%, come il Monte dei Paschi. Grazie a Livia Zancaner. E adesso, in maniera rara in questi giorni, commentiamo una buona notizia che riguarda la nostra economia. Eh sì, perché ne abbiamo parlato col vicepresidente di Confindustria, con la delega all'internazionalizzazione, Paolo Zegna, proprio alcune puntate fa. L'export italiano continua a produrre quel poco, quel pochissimo di crescita economica si vede nel 2008. L'interscambio complessivo dell'Italia a luglio, infatti, ha registrato una bilancia commerciale positiva, cioè la differenza tra importazione e esportazione è positiva, per 2 miliardi e 70 milioni di euro. È il dato migliore dal 1991. Le esportazioni hanno fatto un più 7,1%, le importazioni un più 6,7%. La cosa interessante è che sono deboli tutti i partner più forti e quelli tradizionali. La Germania ha fatto un più 4, la Francia quasi ferma più 0,8, la Spagna, dimostrazione della difficoltà spagnola. Zapatero ascolti, meno 4,6%, la Gran Bretagna meno 5%, gli Stati Uniti meno 3,4%. Il boom del nostro export va verso l'Europa dell'Est, Russia più 30%, Polonia più 17%, Slovenia più 34%, Estonia più 4%, bene la meccanica, i mezzi di trasporto, l'elettronica, l'arredamento, l'alimentare e anche il calzaturiero tessile. E se ne sta parlando in queste ore in un convegno organizzato dalla Confindustria di Vicenza, proprio Vicenza, una delle patrie, delle terre più vocate all'export, laddove emerge, appena emerso da un dato diffuso dalla Fondazione Nord-Est, che più del 50% delle imprese italiane ha rapporti con i mercati esteri e di cui due terzi delle imprese con oltre 50 dipendenti. Dottor Valentino Bravi, amministratore delegato di T-System Italia, buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Voi fate consulenza business to business alle imprese sull'information technology, sulle telecomunicazioni e ha partecipato anche lei al convegno di oggi, internazionalizzazione chiave per l'affermazione delle aziende italiane all'estero. Visti i buoni dati che stiamo commentando, dopo le informazioni per chi è in viaggio, vorrei capire, frequentando le imprese italiane, quali sono le criticità che ancora vede nella internazionalizzazione delle imprese e dove invece ci sono dei punti di forza su cui lavorare. Di nuovo in diretta, dunque, dottor Bravi, i punti di forza che lei vede, ma anche le criticità quando lei va a fare consulenza sulla internazionalizzazione delle nostre imprese, visto che stiamo commentando un ottimo dato sull'andamento dell'export, mai così forte dal 1991. Certo, ma devo dire che noi abbiamo aree, soprattutto nell'ambito del nord-ovest, dove appunto abbiamo tenuto oggi il convegno, dove abbiamo delle eccellenze assolute, dove abbiamo esperienze determinanti e molto positive nell'ambito dell'internazionalizzazione. I problemi più grossi che troviamo sono normalmente dovuti al fatto che per andare all'estero bisogna avere capacità finanziaria. Molte volte, soprattutto nelle medie imprese, ci si trova con situazioni con una capitalizzazione d'azienda magari non sufficiente, ma soprattutto il problema principale che abbiamo riscontrato magari è la capacità culturale di affrontare un mondo completamente diverso, con approcci appunto di business molto differenti e molto distanti dai nostri. Noi ovviamente cerchiamo di supportare queste aziende, soprattutto alle medie aziende, nel prendere decisioni di affrontare questi nuovi mercati, offrendo loro tecnologia e capacità di innovazione nei processi. Quindi ovviamente la tecnologia, la capacità di ridisegnare processi, strumenti di ERP adeguati sono condizioni necessari, ma non sufficiente per avere successo all'estero. Il problema vero che poi, una volta iniziata l'esperienza estera, ci si trova ad affrontare è che molte volte queste aziende si sentono sole, nel senso che, a differenza di altri paesi che hanno magari anche risultati inferiori al nostro, che però hanno strutture e sistemi paese assolutamente più organizzati rispetto al nostro, i nostri imprenditori all'estero molte volte si devono inventare, trovare delle alleanze locali senza avere un reale supporto strutturale da parte appunto del sistema. E devo dire che anche a questo hanno cercato di supplire le varie missioni internazionali organizzate dalle banche, da Confindustria, dall'ICE, la prossima sarà in Vietnam novembre, come ci raccontava il vicepresidente di Confindustria Zegna, perché è chiaro che il nostro imprenditore è un po' più solo quando va all'estero rispetto ai francesi, e non parliamo poi dei tedeschi. Grazie anche a lei, dottor Bravi, e in bocca al lupo per il convegno che continua a Vicenza. Mi sto legato di D-System Italia. Noi chiudiamo come avevamo aperto, e cioè con un tema che per alcuni di voi è un incubo, per altri sono preoccupati come riempiremo il programma dopo Alitalia. Non vi preoccupate, l'abbiamo sempre fatto, e comunque Alitalia sia. È riniziato l'incontro tra i due sindacati dei piloti, e quindi ANPAC e Unione Piloti, per quello l'incontro a Palazzo Chigi. Erano già stati convocati dal sottosegretario Gianni Letta, sono usciti, ora sono tornati. Dovrebbero arrivare alla firma, dico dovrebbero perché condizionale ed obbligo. Io a questo punto però farei sentire, forse come elemento più significativo, l'ultima voce dei piloti che abbiamo a disposizione, lo dico anche alla regia, e poi partiamo con tutte le altre voci. Mi riferisco a praticamente il vicepresidente, per quello che riguarda i piloti, ci ha raccontato poco fa, mi riferisco a Roberto Spinazzola, vicepresidente Unione Piloti, in quale modo firmeranno. Lo ha fatto non a noi, chiaramente, lo ha fatto al megafono, parlando con tutto un insieme di piloti che si trovavano a un'assemblea spontanea a Fiumicino. Vi dico a questo punto com'è la situazione. I comandanti Notaro e Berti sono in questo momento a colloquio con il sottosegretario Letta, ho parlato due minuti fa. Noi abbiamo presentato un documento integrativo, la nostra posizione in questo momento è quella di poter firmare l'accordo quadro solamente se viene accettato questo documento integrativo dell'accordo quadro, che non altera in sostanza l'accordo quadro, perché sarebbe assurdo pretenderlo dopo che hanno firmato CGIL, CISL, UIL e UGL, ma lo integra con delle cose importanti per noi e per la nostra categoria. Vedremo cosa ci sarà risposto, vedremo se ci sarà un minimo di attenzione. Ad oggi devo dire che tutte le aspettative che abbiamo avuto ogni volta che andavamo ai tavoli sono state vane. Purtroppo c'è sempre stato un muro contro. Ha invece firmato la CGIL, questa è la novità più forte del giorno, assieme all'ingresso ufficiale, ma è arrivata ieri sera la conferma di Air France dal 10% al 20% della nuova compagnia. Il segretario Epifani ha citato anche la presenza di Air France come elemento che li ha spinti a firmare, perché garantisce maggiore solidità a livello internazionale, e poi anche una diversa interpretazione sull'accordo. Mille precari verranno inseriti nei prossimi 3 anni, e tutto un insieme di diverse interpretazioni. Sentiamo il commento di Epifani, che ha definito complessivamente l'intesa come positiva. Si è raggiunta un'intesa complessiva assolutamente positiva. Questo dimostra che si può essere responsabili e fare buoni accordi. Attraverso i chiarimenti e le aggiunte che sono state portate, si consente di dare risposta, oltre ai problemi che il piano industriale da noi sottoscritto conteneva, ad alcune questioni che erano rimaste in sospeso o andavano chiarite diversamente. Io penso che sia molto importante il riferimento fatto all'area del precariato. Consentire all'azienda, una volta che riprende a volare, di poter utilizzare quel bacino fatto dai precari di oggi colma un problema che non era stato risolto. Si dà una speranza a centinaia e centinaia di lavoratori per i quali non c'era nulla, perché questi lavoratori non hanno nessun ammortizzatore sociale. Ed è stato salutato con un applauso vero e proprio dalla giunta di Confindustria, che era riunita alla notizia della firma, che anche la CGIL ha firmato l'accordo. Il numero uno di Intesa San Paolo, in quanto consigliere delegato Corrado Passera, ha detto: se c'è la firma della CGIL è un passo importante, giornata decisiva per tutti. Allora sentiamo Su questo lo stesso commissario straordinario Fantozzi. Poco fa però l'ENAC, che è l'autority che regola il traffico aereo, ha detto non c'è il rischio di interruzione della licenza. Sentiamo Fantozzi annunciare che insomma dal 15 ottobre, se non ci sono altri intoppi, nasce la nuova compagnia aerea. Ho ricevuto dall'ingegner Colaninno la lettera che revoca la revoca e quindi che rimette in pista l'offerta CAI, che chiede termine fino al 15 ottobre alla luce degli indugi che ci sono stati fino ad oggi. Quindi il 15 ottobre è il termine dell'offerta CAI. Di qui ad allora dovremo assicurare, uno, che si riesca a fare il closing e quindi si possa passare giuridicamente alla nuova compagnia la gestione Alitalia. Due, che in questo periodo non si sospenda l'attività di volo. Per ragioni operative qualche volo si è dovuto ridurre e io vorrei tramite voi lanciare un messaggio. Alitalia vola, continua a volare, le riduzioni derivano da comprensibili incertezze, da comprensibili dubbi e anche da qualche speculazione evidentemente di coloro che su questo guadagnano. Aiutatemi, aiutateci a fare in modo che questo non avvenga. Nel mese di settembre noi abbiamo avuto una flessione di 100 milioni di biglietti, sono 100 milioni di meno in cassa. Se riprenderemo il flusso normale, questo aiuterà il commissario, aiuterà l'Italia, in definitiva aiuterà l'Italia a viaggiare. E comunque la CAI assumerà 12.500 dipendenti di Alitalia, 3.250 invece andranno in cassa integrazione, poi c'è la parte dei precari. Ma il ministro Sacconi ha voluto ribadire oggi che i documenti firmati anche dalla CGIL sono quelli di metà settembre. Vorrei ricordare prima di tutto che i documenti che voi vedete qui firmati sono quelli firmati il 18 e distribuiti nell'incontro che allora avemmo con le parti sociali presso sempre la Presidenza del Consiglio, cioè sono gli stessi, sono quelli del giorno 18. Come avete sentito non c'è stata nessuna novità sul partner internazionale, perché il partner era sempre stato compreso nel piano industriale ed è sempre stato ritenuto che sarebbe stata la società CAI a sceglierlo più avanti attraverso un confronto competitivo con gli altri, con i competitors europei. Quindi diversità di vedute tra il segretario CGIL Epifani e il ministro Guelf Sacconi, non è una novità. Con questo si conclude Focus Economia. Siamo ancora in attesa di sapere se da Palazzo Chigi i piloti usciranno dicendo abbiamo firmato anche noi. A questo punto la vicenda all'Italia è conclusa, lo sapremo solo vivendo. Buona serata da Sebastiano Berisoni, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.